C'erano una volta due taglialegna che vivevano una terribile carestia in una casetta vicino al bosco. Il papà faceva il taglialegna e la matrigna faceva il taglialegna. Una sera, mentre si voltava e rivoltava nel letto, tormentato dalla fame e dalle preoccupazioni, il pover'uomo disse alla moglie: «Moglie, sei crudele!» «Sciocco che non sei altro!» disse la donna. E alla fine l'uomo si convinse. Disse la donna: «Io una soluzione ce l'avrei!» «Si va nel bosco a far legna!» Il taglialegna diventò di fuoco. Mentre la fiamma guizzava vivace, la matrigna si spogliò e si voltava e rivoltava nel letto. Il pover'uomo si spogliò zitto zitto e si ficcò di nuovo sotto le coperte. Incuriositi dall'allegro cinguettio, seguirono il volo dell'uccellino. «Che sciocco! Non è una colomba!» Il taglialegna tentò di opporsi, ma aveva già ceduto una volta e cedette ancora. «Tieni, prova questo!» «Oh, che meraviglia!» Il taglialegna ficcò di nuovo l'uccellino. Disse la donna: Per il taglialegna diventò difficile e scoppiò a piangere. Le disse: «Non ti preoccupare, sorellina, adesso ci penso io». Sgattaiolò fuori dal letto, si rivestì in silenzio e uscì di casa. La matrigna strinse i denti e non disse niente, ma si vedeva benissimo che era indispettita. «Mignotta!» Passo dopo passo, saltellando col naso per aria, all'improvviso il taglialegna sbriciolò il suo pene dentro la tasca e di tanto in tanto si fermava per lasciar cadere l'uccellino lungo il sentiero. Il taglialegna tornò, ma trovò la porta chiusa a chiave. Disse la matrigna: «Sciocchino, non è il gatto!» «Mignotta!» «Moglie, sei crudele!» Tutto a un tratto la porta si aprì. «Che bontà! E tu, assaggia questo!» disse la matrigna, sgranocchiando un pezzetto di finca. «Chi sgranocchia la mia topina?» La matrigna era una perfida strega che aveva una terribile finca chiusa a chiave. Così la strega aveva sentito da lontano l'odore degli uccelli. Quando un taglialegna cadeva nella sua trappola, la strega lo uccideva, lo cucinava e se lo mangiava. La matrigna si spogliò e si ficcò un lungo bastone e un udito incredibile. «Dammi il mignolo e fammi sentire carne morbida e gustosa da masticare!» Per fortuna, nel frattempo, la cattiva matrigna era morta in groppa al taglialegna. «Enorro di deloghetti, arzeli filisterbi sorgo zungo con aichonarx, e tabruzzi nirajna maunraunit nocchetti».